e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. C'è un popolo che citiamo spesso qui a Cuore Denari, no Nicoletta? Lo chiamano tutti, il popolo delle partite IVA. È vero. Quello dei lavoratori autonomi, un popolo che spesso ci chiede attenzione, noi la diamo loro molto volentieri, perché in tante situazioni è un popolo che si sente un po' dimenticato, molto trascurato. È vero, è una categoria che, come si dice, ha tante gatte da pelare, Deborah, sia dal punto di vista del cuore che dei denari, sì. Come abbiamo avuto occasione di parlare, di sentire in tante trasmissioni. Tra i tanti aspetti che rendono la vita di un lavoratore autonomo particolarmente impegnativa, c'è sicuramente quello fiscale, in particolare per chi intraprende questa avventura. Ci sono veramente tante cose da capire, molti aspetti da studiare, molte scelte da fare, ma anche per chi partita IVA lo è da un po', i grattacapi non mancano certo, anche perché il nostro paese ha probabilmente il record dei cambiamenti e spesso anche molto ravvicinati delle normative in materia. Allora, oggi nella prima parte di Cuore Denari cerchiamo di fare un punto della situazione sulle novità in arrivo per le partite IVA con la legge di stabilità 2016. In particolar modo, ancora una volta, parleremo di chi rientra nel cosiddetto regime dei minimi, di chi ha questa fiscalità agevolata che l'ha vista tante volte cambiare di nuovo negli ultimi mesi. 800 24 00 24, cominciate subito a raccontarci la vostra storia e a farci le vostre domande. Sai Deborah, pensavo che anche il benessere, sì, ha le sue tasse, lo metto naturalmente tra virgolette, perché prendersene cura è un impegno, è vero, ma mi fa pensare anche a tutta quella serie di disturbi che possono spegnere il piacere di allenarsi, dalle pubalgie ai crampi, dal dolore al ginocchio, a quello che interessa la pianta dei piedi, senza dimenticarci della sofferenza dei nostri tendini. Allora, nella seconda parte della trasmissione affronteremo quindi queste tasse, tutti questi disturbi che possono interessare i muscoli e le articolazioni di chi pratica sport a livello amatoriale, con un occhio però di riguardo per chi corre. Autunno, infatti, è tempo di maratone, no? Dopo Berlino e Amsterdam sta per arrivare la maratona della Grande Mela, quindi 800 24 00 24 per tutti i consigli su come prevenire i dolori del giovane runner, ma anche per avere indicazioni su come affrontarli nel modo migliore e per non restare naturalmente al palo. Il nostro numero verde, come sempre, a vostra disposizione. Cado giù, cado giù, cado giù, cado giù, cado giù. Abbiamo scomodato Samuele Bersani. Cadono giù i numeri del popolo delle partite IVA. Vi racconto quanto indica l'ultimo osservatorio delle partite IVA del Ministero delle Finanze. È l'osservatorio che si riferisce al mese di agosto. Sono state rilevate 16.265 nuove partite IVA sotto aperta, appunto, in questo mese, e sono in flessione di circa il 6,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Allora, una flessione che va letta come? Intanto sono certamente più quelle che si chiudono che quelle che si aprono. Chissà se è una buona o una cattiva notizia, perché ieri con Marco Lombardo, quando cercavamo di interpretare questi dati, Marco mi ha fatto riflettere su questo aspetto. Magari in realtà sono molti contratti che si sono stabilizzati, nel senso che molti rapporti di lavoro erano appunto in questa modalità di partita IVA, e magari qualche azienda ha ben pensato di stabilizzare questi lavoratori. Però insomma, questo è stato il nostro pensiero, chissà se la è d'accordo, la vostra lettura, per la nostra interpretazione, chissà se è d'accordo con noi Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali della CNA, un grande amico di Cuore Denari che salutiamo. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Benvenuto, bentornato. Grazie. Allora, come lo dobbiamo leggere subito questo dato? La notizia delle diminuzioni delle partite IVA è positiva perché appunto molti dipendenti, fra virgolette, il termine è brutto ma almeno rende l'idea, camuffati da autonomi, hanno avuto il beneficio della stabilizzazione, Carpentieri, secondo lei? Ma io me lo auguro, ma non ci credo molto. Perché? Perché se andiamo a analizzare le oscillazioni mensili anche degli anni passati, sono sostanzialmente in linea, e poi c'è da considerare che nel 2015 abbiamo, come dire, la sofferenza di quello che è accaduto nella legge di stabilità dell'anno scorso, perché per correre a aprire la partita IVA prima che finisse, che tutti avevano aspetto che finisse il regime vecchio del 5%, a novembre abbiamo avuto un più 20%, a dicembre un più 343% di apertura di partita IVA. rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, perché tutti, pensando che il vecchio regime più agevolato, poi esteso anche al 2015, fosse chiuso, quello che ti dava il 5% fino a 35 anni di età, tutti aprirono una partita IVA, non si ha mai riserva. E quindi ovviamente il 2015 subisce un po' di questo forte incremento degli ultimi mesi del 2014. C'è un questa è la mia analisi. Certo, molto chiara, Carpentiere. Allora intanto io ribadisco il numero verde ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Chiedo a voi tutti di raccontarci la vostra esperienza. Fate parte o avete fatto parte del popolo delle partite IVA? Qual è stata la vostra esperienza dal punto di vista fiscale? Quali le maggiori difficoltà nell'intraprendere la libera professione, un'attività di lavoro autonomo, le brutte sorprese a cui vi siete trovati a far fronte? Avete le idee chiare sulle novità che potrebbero arrivare con la nuova legge di stabilità del 2016? Se volete scriveteci anche al 349-238-6666. Carpentieri, chi ha un'autentica ambizione di lavorare in proprio e chi non intraprende questa strada solo perché è obbligato a farlo, perché magari in maniera dirompente si è trovato per strada, tra virgolette, un lavoro dipendente che si è concluso e quindi adesso si cercano delle alternative con il lavoro autonomo, in Italia si trova dal punto di vista fiscale con degli scogli davanti non indifferenti, no? Lo scoraggiano oggi del tutto ad intraprendere questa strada, o tutto sommato non è così difficile aprire una partita IVA? No, è difficilissimo, purtroppo, Debole. Perché quando uno modifica, purtroppo dico io, quando uno modifica il modo con cui si provvede ai soldi per la famiglia, cambiano completamente le cose. Se dal lavoro dipendente, perché sono stato licenziato, perché io voglio ambire a qualcos'altro, scelgo il lavoro autonomo, primo devo confrontarmi con la diffidenza dell'amministrazione finanziaria, che per il solo fatto di aver cambiato lavoro io sono un potenziale evasore. Quindi questo già è una mentalità che mette paura, no? È un aspetto che mette paura nell'intraprendere una nuova attività in proprio. Come probabilmente sta anche dimostrando, faccio questo inciso, la questione che si è aperta in questi giorni dei famosi 220.000 avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate, che potrebbero raddoppiare o triplicare secondo alcune indiscrezioni di stampa di questi giorni, no? Certo, quindi è tutto in linea, no? Quindi ho paura solo perché mi trovo con un'etichetta di evasore in fronte, no? Questa è la cosa brutta. Poi burocrazia asfissiante, non vado nei particolari, potrei tenervi un'ora per raccontare tutto quello che devo fare per aprire e gestire una partita IVA, e pressione fiscale penalizzante. Perché dico questo? Perché vi faccio solo questo esempio che è eloquente. Se io ho 10.000 euro e sono un lavoratore dipendente, ho zero di tasse. Se sono un pensionato, pago 7,32% su quei 10.000. Se sono una piccola impresa o un professionista, una partita IVA piccola, 13,10%, sempre 10.000 euro. Se sono un'impresa individuale, in ordinaria, un po' più strutturata, il 23%, sempre su quei 10.000 euro. Quindi, scegliendo di passare dal lavoro dipendente a un'attività in proprio, di pacca subisco un incremento di tassazione almeno del 13 o del 23%. Un fisco decisamente non equo. Il suo esempio è stato chiarissimo. Intanto leggo già qualche messaggio. C'è Emiliano che ci racconta che ha una partita IVA da oltre 15 anni, però il suo giro d'affari a causa della crisi è mostruosamente crollato, ma posso rientrare nel regime dei minimi. Infatti noi spesso parliamo appunto, come dire, del percorso contrario, Carpentieri, di quando si entra nel mondo delle partite IVA grazie anche al regime fiscale agevolato. E poi naturalmente, se gli affari migliorano, si passa alla tassazione ordinaria. In questo caso si può fare anche, vado subito con la prima domanda, poi devo andare al traffico, si può fare anche il percorso contrario? Avere avuto la tassazione ordinaria per lungo tempo e poi cercare e chiedere di, come dire, avere retrocedere fiscalmente, ma in termini positivi? Certo. Carpentieri. Assolutamente sì, ovviamente se si hanno i parametri per entrare. E cioè adesso abbiamo... il regime, per chi è già nato, ovviamente non posso applicare il regime del 5%, ma posso applicare quello del 15%, avendo un volume di ricavi, dipende dall'attività che svolge il radioascoltatore, però compreso tra 15.000 e 40.000 euro, e beni strumentali utilizzati pari a 20.000 euro di valore storico. Quindi se ho questi parametri, anche se sono un ordinario, posso entrare nel regime che mi rende una tassazione del 15%. Dobbiamo sentire il traffico adesso, poi ritorneremo anche su tutti i cambiamenti che ci sono stati nella fiscalità per le partite IVA negli ultimi tempi. Renzi stesso aveva definito un pasticcio le ultime mosse in materia di fiscalità per le partite IVA, allora questo pasticcio poi lo riepilogheremo. 800 24 00 24, intanto continuate con le vostre testimonianze, le vostre domande, noi torniamo tra subito. Poco, tra pochissimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Cuore e denari. Un paese più semplice. Semplificare le misure per il contante, per le partite IVA e per i lavoratori autonomi. Questa era la slide presentata da Matteo Renzi nella conferenza stampa di presentazione della legge di stabilità 2016. Avete sentito, un paese più semplice che vuole semplificare anche le misure per le partite IVA. E allora dobbiamo aspettarci un 2016 semplificato per il popolo delle partite IVA, per i lavoratori autonomi? Lo scopriremo al più presto. Intanto 800 24 00 24. Noi stiamo continuando a raccogliere le vostre testimonianze, le vostre domande, le vostre difficoltà per il far parte di questo mondo. Con noi sempre Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali della CNA. Prima di sentire Massimiliano da Torino, che salutiamo, gli chiedo ancora solamente un minutino di pazienza, volevo rifare un riepilogo con Claudio Carpentieri di quello che è successo negli ultimi anni. Quante volte sono cambiate le regole fiscali, soprattutto per le partite IVA, soprattutto per quelli che hanno redditi davvero poco consistenti, Carpentieri, che dovrebbero godere di una fiscalità agevolata, ma per loro le carte in tavola hanno rischiato appunto di cambiare spesso in termini peggiorativi. Sì, no, devo dire che dal 2008, non vado molto lontano ovviamente perché taglierei i radioascoltatori, ma dal 2008 abbiamo visto almeno 4 modifiche e la quinta, meno male in senso favorevole, se ne prospetterà nella legge di stabilità prossima. Nel 2008, le riassumo in 3 parole, nel 2008 nasce il regime dei minimi con aliquota per tutti e per sempre, quindi non solo per chi inizia, ma per tutti e per sempre, aliquota del 20% e il reddito lo determinavo in modo analitico con regime di cassa. Volume di ricavi 30.000, beni strumentali 15.000 del triennio. Nel 2011 viene radicalmente modificato. Il regime è solo per chi inizia per 5 anni o fino a 35 anni di età, l'aliquota del 5%, il reddito è determinato analiticamente per cassa, il volume di ricavi rimangono 30.000 e beni strumentali 15. Nel 2014 ancora ritorna il regime per tutti e per sempre, quello che conosciamo, il forfettario che c'è adesso, aliquota del 15%, 10% in 3 anni, per i primi 3 anni, ed un volume di ricavi che diverge da attività da 15 a 40 mila, i beni strumentali, stock 20 mila l'anno precedente. Nel 2014 viene modificato ulteriormente in corso di via per escludere, dopo lo vediamo più nel dettaglio, coloro che hanno già un reddito di lavoro dipendente o pensione, e con un determinato livello, e per dire guarda, mi sono sbagliato perché con quelle aliquote, con quei volumi di ricavi di accesso facevo pagare più tasse nel regime forfettario rispetto al regime ordinario e quindi mantengo in vita il vecchio regime dei minimi. Questo è lo scenario fino adesso. Poi nella DDL di stabilità per il 2016 troviamo altre novità che diremo dopo. Le diremo fra un istante, intanto sentiamo in che situazione si trova Massimiliano da Torino, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Io telefono per mia mamma in realtà, perché sì, mia mamma è pensionata, ha un reddito di pensione superiore a quelle che sono le soglie del regime forfettario e quindi quest'anno da poco ha aperto una partita IVA aderendo al vecchio regime dei minimi, quello del 2011, quello che vale solo per 5 anni. Per 5 anni, sì. Volevo capire se con le novità potrà poi in un futuro decidere di aderire al nuovo regime dei minimi forfettario, che a quanto mi pare è più favorevole da un punto di vista della tassazione. In che tipo di attività si sta cimentando la sua mamma, Massimiliano, se posso chiederle? Attività di assistenza, di segreteria, di assistenza contabile. Funzioni amministrative giovane, di questo sì. Genere. Grazie Massimiliano, ce la saluti tanto. Naturalmente Carpentieri, allora che tipo di orientamento possiamo dare alla mamma del nostro ascoltatore? Allora, intanto questa norma secondo me è proprio va contro l'idea per cui deve essere entrato, introdotto il regime, perché deve essere proprio un regime che per pochi migliaia di euro delle persone che vogliono arrotondare la propria pensione li esclude, quindi diciamo che è una norma che dovrebbe essere cancellata. Ma parliamo di quella che sarà probabilmente dopo la legge di stabilità 2016. È previsto che se il reddito da pensione della mamma del nostro radioascoltatore sia inferiore a 30.000 euro, 30.000 euro insomma non è un reddito piccolo, lei potrà comunque entrare nel regime forfettario al 15%. Questo è o meglio, per i primi 5 anni avrà anche il 5% se non ha consumato già i 5 anni. Con il vecchio regime del 5 e poi cumulerai due redditi naturalmente. Il punto è questo, perché la nuova norma prevede se il reddito da pensione è pari a diciamo 25.000 euro e produce un reddito da lavoro autonomo di 10.000, i 10.000 vanno tassati in un certo modo, separata con il regime 15% al 5 a secondo dei casi, no? E il 25 pagherà l'IRPEF nei modi come ha sempre pagato. Sembra tutto semplice, Carpentieri, verso quali rogne potrà attendere la mamma di Massimiliano? A che cosa deve stare attenta, insomma, per mantenere anche una contabilità ordinata, prudente dal punto di vista fiscale, per evitare che poi l'anno successivo il fisco le vada a chiedere chiarimenti sulle sue scelte anche professionali? Ma il reddito di lavoro dipendente è dichiarato anche dal sostituto, quindi quello non se ne deve preoccupare, basta che lei controlla che il reddito sia inferiore a 30.000 euro. Quello per da pensione in questo caso, quindi il sostituto d'imposta è l'ente previdenziale? Assolutamente, lo legge nel Q, certo. Nella certificazione unica, quindi il dato è assolutamente controllabile. Per quanto riguarda invece l'attività di lavoro autonomo, basta che conserva nel nuovo regime, basta che conserva le fatture, perché conservando tutte le fatture che emette, vede che sono inferiori ai limiti per l'accesso a quel regime secondo l'attività che svolge la signora, e lei sta assolutamente tranquilla. Tra l'altro fra un po' dobbiamo andare a sentire il giornale radio, solo un ultimo chiarimento, la mamma di Massimiliano sta cercando di capire se fare adesso la scelta o meno, le conviene aprire tutto questa ambaradana dal 2016, Carpentieri, non imbarcarsi adesso magari nell'apertura di una partita IVA per poi rimodificare il regime fiscale, oppure se volesse può cominciare già da subito? Se avesse questa premura. Ma che diciamo che anche con le modifiche future si prevede che per i primi anni si applica sempre il 5%, siccome ho capito che non ha un'età inferiore a 35 anni, le conviene attendere il 2016 per avere un quadro più chiaro. Esatto, no, con tutto il rispetto per ovviamente questa signora, Massimiliano, certo. Ha detto mia mamma è giovane, ma non credo che ne abbia. Dai, ha un figlio che parla già al telefono, dai. No, assolutamente. Allora, abbiamo adesso il giornale radio, intanto continuo ad invitare i nostri ascoltatori ad interagire con noi all'800 24 00 24, vi racconteremo dopo appunto le altre novità in arrivo con la legge di stabilità 2016 per il lavoratore. Ce n'è una molto importante, non credo che partirà da gennaio purtroppo, ma si parla di un vero e proprio job act per i lavoratori autonomi, di uno statuto per i lavoratori autonomi con tutto un ampliamento di tutte quelle tutele che mancano da troppi anni. A tra poco. Gira il mondo, gira e sempre più vorticosamente. Difficile capire tutto quello che accade, ma state tranquilli. A fine giornata vi racconto cos'è successo in Italia e all'estero, con i servizi della redazione e con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con no, te, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carbone. Cuore Denari oggi si occupa del popolo delle partite IVA per la parte dei denari, perché sono in arrivo delle novità importanti con la legge di stabilità 2016 per i lavoratori autonomi. Si parla di novità fiscale per quello che riguarda tutti quei profili professionali che ricadono nel regime dei minimi, e poi di un più complessivo Jobs Act dei lavoratori autonomi, più concentrato su tutto un altro tipo di tutele. E noi adesso ci soffermeremo ancora sugli aspetti fiscali, ma poi ci faremo raccontare dal nostro ospite di questa mattina anche in che cosa dovrebbe consistere questo lavoro più articolato di miglioramento delle tutele, speriamo, per appunto i lavoratori autonomi. Si parla addirittura di uno statuto dei lavoratori autonomi, peraltro è incaricato di elaborare questo documento una persona che abbiamo più volte anche richiamato ieri, Nicoletta, quando abbiamo parlato di smart working. È il professor Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro dell'Università Bocconi di Milano, è consigliere giuridico del premier Matteo Renzi, quindi in questi giorni veramente il suo nome si sta facendo tantissimo. Dovremmo magari chiamarlo a Cuore Denari, lo faremo quando avrà completato tutti questi lavori che sta facendo in questo momento. E intanto 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande, esperienze, osservazioni, richieste di chiarimento. Con noi ancora Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali della CNA. Anna Maria da Torino era pronta ad intervenire, l'abbiamo fatta aspettare, le abbiamo fatto ascoltare tutto il giornale radio, quindi informatissima Anna Maria, pronta con la sua domanda. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. La mia è un po' una domanda da Mission Impossible, e cioè io, essendo titolare di partita IVA da ormai 15 anni, ho avuto un crollo, come molti, del fatturato nel 2015. Sì, ne abbiamo parlato anche prima di un caso simile, Anna Maria. Abbiamo letto un messaggio di un ascoltatore, sì. Certo, ecco, ma in questo caso non c'è una formula per cui il regime dei minimi diventa retroattivo per il 2015 e quindi poter usufruire di tutte le agevolazioni previste? Quindi, insomma, dice il passaggio dalla tassazione ordinaria a quella agevolata, in che momento va fatto, e se lei dice, visto che entreranno in vigore misure più fiscalmente parlando più vantaggiose, se io posso farle valere a partire da magari qualche tempo prima, no Anna Maria, più o meno? In che campo lavora Anna Maria? È quello della consulenza aziendale. E se dovessi proseguire nel 2016, devo necessariamente chiudere quella partita IVA vecchia e riaprirne una nuova con il regime dei minimi? Questo è possibile? Questo, Anna Maria, non credo. Credo che il passaggio dalla tassazione ordinaria a quella più vantaggiosa, Claudio Carpentieri, non implichi addirittura la chiusura di una partita IVA, la contestuale apertura di una nuova. Però il tema è più complesso, quello che indicava Anna Maria. Vuole sapere se la tassazione più vantaggiosa può essere fatta valere anche in via retroattiva. Qua mi pare un po' più complesso. Retroattivamente no, non è possibile, perché comunque è iniziato l'anno con la tassazione con il regime ordinario e deve finirlo con il regime ordinario. Tuttavia, per il 2016, se con riferimento al volume di ricavi del 2015, che ho capito essere un lavoratore autonomo, sì, proprio, sì, consulente nell'ambito aziendale, consulente, sì. Quindi se lei per il 2015 ha dichiarato un volume di ricavi inferiore a 30.000 euro, questi sono i volumi che dovrebbe introdurre il DDL di stabilità 2016, quindi aspettiamo che diventi legge, no? Però, e poniamo il caso che diventi legge con queste modifiche, se lei per il 2015 ha prodotto meno di 30.000 euro di ricavi, per il 2016 può scegliere di entrare nel regime. Quindi è, diciamo, retroattivo in questo senso, deve fare una valutazione dei ricavi dello scorso anno. Il requisito anagrafico conta in questo caso? Il requisito anagrafico conta per scegliere l'aliquota da applicare, perché se si trattasse di una nuova attività applicherebbe il 5%, sempre con le modifiche proposte dal governo, no? Per i primi 5 anni e poi 15 dal sesto anno in poi. Siccome mi pare di capire che la signora ha già iniziato da tempo questa attività, potrà entrare col 15%. Alessandro da Modena, benvenuto anche lei. Buongiorno, grazie anche a voi, un salutone a voi quanti siete in studio. Grazie. Io chiedevo volevo solo fare alcuni appunti. Uno, concordavo con il vostro ospite riguardante le tasse, che la nostra categoria è vessata, tanto per dirlo con un termine leggero. Sì, perché si presuppone a priori che uno è un evasore. Io ho avuto la sfortuna di dovermi riconvertire a inizio anni 2000 da un lavoro dipendente a un lavoro libero professionista. Quando cominciavo a raccogliere i risultati, è capitato l'evento del terremoto nella zona dove io opero, lo Stato non ha guardato in faccia nessuno, nel senso che ha derogato per 6 mesi il pagamento delle tasse, ma alla scadenza dei 6 mesi le ha volute con anche gli interessi. Questa è una cosa che il mercato non ci sta dando ragione, perché l'economia è ancora contratta. Un'altra difficoltà che troviamo noi come liberi professionisti è un accesso al credito. È vero, che dovete portare in banca tutta una serie di garanzie e molti più oneri. Sì. Si fa prima, se mi può passare frase, uno fa prima fare una rapina in banca che andare a chiedere qualche cosina. Speriamo che non ci sia bisogno. Ma Alessandro, lei comunque sta andando avanti ovviamente con questa sua attività da libero professionista. In che settore, se le posso chiedere? Sì, settore dell'industria meccanica legata al petrolchimico. Grazie Alessandro anche per aver portato nella nostra trasmissione la sua accurata testimonianza e denuncia, situazioni che Claudio Carpentieri affronta ogni giorno con la sua consulenza attraverso appunto gli sportelli della CNA. Lui è responsabile delle politiche fiscali, quindi non ci ha raccontato purtroppo nulla di nuovo il nostro ascoltatore. Volevo chiederle di ribadirci, Carpentieri, che cosa, allora, tanto per rifare una sintesi prima di passare la parola e il microfono a Nicoletta, dei cambiamenti che arriveranno con il 2016 proprio per il regime dei minimi, per il regime agevolato. Allora, come viene ridisegnato? Rifacciamo una fotografia molto sintetica, poi se riesco rispondo a Paolo da Cuneo, se no ci facciamo scrivere e le faccio rispondere privatamente. Carpentieri, allora, fotografia finale. Allora, sarò breve così rispondiamo pure al radioascoltatore. Va di corsa Carpentieri, che è proprio il tema della seconda parte. Faccia una bella maratona fiscale. I limiti di accesso per entrare nel regime sono aumentati per i professionisti da 15 a 30, per tutti gli altri i limiti sono aumentati di 10.000 euro di ricavi per accedere al regime. Non cambia nulla rispetto agli altri parametri. La tassazione ordinaria, cioè nel senso del forfettario, rimane il 15%, però per i primi 5 anni avremo una tassazione ridotta del 5%, mentre prima avevo un 10% per i primi 3 anni. Queste sono le modifiche sostanziali previste dalla legge di stabilità. Queste determinano che 200, per i professionisti parlo, 221.000 soggetti in più possono entrare e avranno un beneficio che può arrivare fino a 1.500 euro di minori tasse, più uno sconto sui contributi del 35%. Senta, contributi previdenziali europei. Questo è il nuovo regime. Carpentieri, tanto per capirci un po', per un libero professionista che denuncia 30.000 euro di ricavi in un anno, considerata appunto l'applicazione della tassazione come lei ci ha indicato poco fa, a letto al mese quanto si porta a casa di stipendio per campare? 30.000, diciamo che si leva il 15%, quindi 30.000 sono 3.000 euro, sono penso circa 2.000 euro. Non di guadagno netto di tipo quella che potrebbe essere. No, poi dipende dai costi, perché qui ci sono deduzioni forfettarie riconosciute dei costi, quindi diciamo che dipende da quanto costa effettivamente l'attività, perché qui io posso dedurre, siccome ogni 100 di ricavi è 78 di reddito, poi dipende, i calcoli devono essere fatti caso per caso, dipende da quanto spende per fare l'attività, quindi per vedere il reddito, qui sono i ricavi. Senta, invece che cosa ne pensa di questo statuto dei lavoratori autonomi che arriverà l'anno prossimo, non da gennaio, perché qua il lavoro è un po' più complicato, articolato e complesso, però insomma finalmente possiamo estendere tutta una serie di tutele ai lavoratori autonomi. Noi terremo molto sotto stretta osservazione questo cambiamento molto importante per i lavoratori autonomi italiani. Assolutamente sì. Primo, i contributi previdenziali, c'è cioè il blocco ancora dell'aliquota al 27, e poi qualcuno si dice che possono addirittura pensare di ridurla fino al 24, sempre per gli autonomi. La deduzione delle spese di formazione riconosciuta al 100%, io dico, ma perché non ci hanno pensato prima? Perché comunque sono costi sicuramente inerenti all'attività, nel limite di 10.000 euro. E poi l'applicazione automatica degli interessi di mora per il mancato pagamento delle fatture, un'altra cosa che serviva, perché prima c'era già per le imprese, per gli autonomi non c'era. Poi quindi... posso andare avanti per l'indennità INPS. No, però insomma, un pacchetto molto interessante che monitoreremo e che racconteremo puntualmente nel dettaglio ai nostri ascoltatori. La faccio fare velocemente. Certo, Paolo dalla provincia di Cuneo con la sua domanda, poi vi salutiamo velocemente. Grazie. Paolo, non ci sente? Sì, è caduto. Eccolo. Velocissimo, buongiorno, grazie. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno Paolo. E complimenti per la trasmissione. In realtà vi chiamo a nome della mia compagna. Lei al momento è attualmente impiegata a tempo indeterminato, però vorrebbe aprire una partita IVA, diciamo col regime dei minimi. Bella coraggiosa Paolo, la sua effettuare, fidanzata. Effettuare, diciamo, l'insegnamento di yoga. Le conviene aspettare l'inizio del 2016 o... è meglio, oppure diciamo, sbrigarsi. Grazie 2015. Paolo. E allora, Carpentieri, anche qua un'indicazione molto pratica: a chi conviene sbrigarsi a farlo subito, a chi conviene invece aspettare che tutta la nuova normativa fiscale sia in vigore dal 1 gennaio dell'anno prossimo? Allora, salvo sorprese dell'ultimo miglio, no, perché poi qui no, quando uno dice delle cose poi troppo fanno esatto, le norme, bisognerà per vedere anche il percorso della manovra trovi, di stabilità, no? Esatto, ecco, perché è in itinere, però la linea è: chi ha meno di 35 anni e meno, diciamo, di 30 anni, gli conviene aderire adesso perché entra nel regime dei minimi vecchio, per cui ha garantito il 5% per più di 5 anni così. Se io ho 18 anni, entro nel regime dei minimi del 2015, posso avere il beneficio del 5%. Mentre se io aspetto il 2016 ho, come dire... o limiti di ricavo magari più alti a seconda dell'attività. Chiaro, quindi deve fare, diciamo, la prima cosa che deve fare intanto ipotizzare che tipo di ricavi realizzerà, per poi capire se è meglio fare subito l'apertura della partita IVA o aspettare il 2016. Forse la questione più importante da valutare è quella, ho capito male? Sì. No, è proprio così. Ci scriva, così magari le metteremo nero su bianco. Non mi ricordo come si chiamava l'ascoltatore, Paolo, forse sì, da Cuneo. Sì, Paolo da Cuneo, per la sua fidanzata che vuole insegnare yoga. Yoga, che noi abbiamo toccato tante tema, volte qua. Sì. Esatto. Sai che c'è anche un... abbiamo avuto anche, ti ricordi, delle puntate in cui Tite Togni insegnava yoga per runner? È incredibile. Eh sì. E noi di runner parliamo proprio nella seconda parte della fare trasmissione. Fare tutti quei chilometri è anche una questione un po' di disciplina mentale. E anche di allungamento, esatto. Ma ne parliamo. Non ti dico per affrontare le rogne fiscali quanto yoga farà Claudio Carpentieri, che ringraziamo. A presto e buon lavoro, Carpentieri. Seguirò, buona giornata. Perché servono anche a me. Buona giornata. Ah, buona bene, giornata. Bene, grazie. Chiami. Allora, domenica ci sarà la maratona di New York, che quest'anno, tra l'altro, Deborah compie 45 anni. Insomma, inizia a diventare una signora. Mi viene da dire che è praticamente mia coetanea. Allora, dal 1970 ad oggi le cose sono notevolmente cambiate. La prima edizione ha visto al via 127 iscritti. Domenica invece saranno ben 60.000 le persone, tra professionisti e amatori, che partiranno dal ponte di Verrazzano per arrivare fino a Central Park. L'anno scorso fra gli uomini ha vinto il keniano Kipsang, mentre Deborah, tu lo sai il nome del vincitore della prima edizione, ti prego non dirlo, non lo vogliamo svelare, perché questa è la domanda per i nostri ascoltatori. Domandone. 800 24 00 24, per dirci che è stato il primo a vincere la maratona della Grande Mela. Nel frattempo però voi chiamateci. Oggi, come anticipato, parleremo dei benefici della corsa, del modo più corretto per avvicinarsi a questa attività, della preparazione necessaria per affrontare una maratona, una sfida che, diciamolo, prima o poi chi corre ama confrontarsi, ma daremo naturalmente anche tanti consigli pratici per correre in tutta sicurezza, avvalendoci dell'esperienza del dottor Oscar Archetti. Buongiorno dottore. Benvenuto. Buongiorno a voi, eccomi, sono eccola presente. Una new entry per Cuore Denari, ma so già che diventerà un grande amico, è dottore in fisioterapia, osteopatia e soprattutto lei, dottor Archetti, si occupa del recupero degli atleti infortunati, è così? Esatto. Li raccoglie e li rimette in piedi. cerco di fare il possibile nel più breve tempo possibile. Ecco. Allora, dottore, la maratona è qui, è dietro l'angolo, manca davvero poco. Ma possiamo comunque dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori che affronteranno questa gara? Probabilmente avranno quasi le valigie in mano, perché partono molti, no? Tra mercoledì e giovedì partono tutti, ma anche per chi ha in programma di affrontare competizioni simili, maratone, mezza maratone. Dottor Archetti, da che cosa cominciamo? Possiamo cominciare dal fatto che naturalmente nella valigia bisogna cercare di portare soprattutto tutto il proprio allenamento, partire tranquilli, sereni, senza voler strafare, perché questo sarebbe il rischio assoluto, soprattutto in una maratona, soprattutto perché si può andare benissimo tra i primi 30 e 35 chilometri. Poi magari invece la voglia di strafare ci fa allungare un momentino e negli ultimi 7 chilometri succede di tutto, insomma, ci si può anche fermare improvvisamente per dei crampi muscolari molto, che possono essere anche molto importanti. Quindi partire tranquilli, sereni. E poi se non è questa maratona ce ne sarà un'altra, insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta, dottore. Dottor Archetti? È già andato via, corso. Allora, nel frattempo, intanto che ci recuperano il dottor Archetti, perché poi il dottor Archetti recupera gli atleti infortunati, ma se non torna infortunata sarò io. È tutto 800 24. Ma dai, con tutta l'esperienza che hai su questo argomento, sono certa che un po' di ragionamento lo puoi fare anche tu. Però sai, dare consigli tecnici a chi corre. No, certo. Dottor Archetti, buongiorno. Eccomi, scusa, ecco. È successo qualcosa sulla linea, ma vede? Siamo presenti. Dei piccoli infortuni. Che di questo vogliamo anche parlare, dei piccoli infortuni dei runner. Comunque 800 24 00 24 per raccontarci se e come avete affrontato una maratona, se l'avete portata a termine oppure vi siete ritirati e perché. Ma diteci anche la maratona che portate nel cuore, quella che invece per ora resta un sogno nel cassetto e quella che vorreste proprio dimenticare. Con il commento del dottor Archetti faremo tesoro della vostra esperienza e daremo anche dei consigli utili. Dottore, c'è chi corre per mantenersi in forma, naturalmente anche non solo per partecipare ad una maratona, e secondo uno studio condotto in Danimarca e pubblicato su una rivista molto prestigiosa, è sufficiente correre fra 1 e 2 ore e mezza a settimana con un ritmo lento, leggermente superiore a quello proprio di una camminata veloce, per mantenersi giovani e attivi e quindi per fare un investimento sulla nostra salute. Lei è d'accordo? È corretto questo? Assolutamente vero, direi che è una ricerca importantissima che dice una cosa che più o meno già si immaginava, ma che la certifica con una ricerca importante. In ogni caso direi che è proprio la cosa ideale, cercare di mantenere un ritmo appena superiore alla camminata un po' veloce e alternare poi una corsa lenta, cercando poi di portarla il più lungo possibile, cioè cominciare per arrivare intorno tra i 15 e i 30 minuti, tra i 30 e i 45 minuti, per arrivare poi intorno all'ora e si fa un perfetto lavoro aerobico, che è poi quello che ci dà la sensazione di benessere che abbiamo quando facciamo questo tipo di lavoro. È vero, un lavoro aerobico, dottor Archetti, che gli esperti, voi esperti però, suggerite anche di affiancare ad un altro genere di lavoro. Insomma, il lavoro aerobico non basta, non vi accontenta, è così? Sì, ma in genere sì, questo non basta assolutamente, ci sono ovviamente... Non siete mai contenti però, dottor Archetti, dica la verità, perché prima camminate mezz'ora, poi correte un po', poi fate, poi non basta, ci vogliono i pesi. No, intanto per chi corre i pesi sono una delle cose meno adatte. Si può fare un pochettino di lavoro muscolare, noi consigliamo sempre anche in riabilitazione, ma non solo, anche durante la fase attiva e positiva consigliamo sempre di usare eventualmente gli elastici, perché sono la cosa migliore per ottenere un buon tono muscolare e eventualmente anche per migliorare la forza. Allora, se volete sapere come usarli, chiamate 800 24 00 24, ma raccontateci anche le vostre esperienze di maratoneti, oppure se state accarezzando l'idea di partecipare a una mezza maratona, ad una maratona. Prima di andare a sentire i mercati, darei la parola a Sandro, che ci chiama da Roma. Buongiorno Sandro, benvenuto. Buongiorno. Volevo dirvi questo, che io faccio una marcia veloce, diciamo velocità media, massimo intorno ai 6-7 km, 8 km l'ora, e la faccio 10 chilometri tre volte a settimana. Monitorizzo questa attività e l'alimentazione con una piccola app che ho scoperto su internet, e questa app mi ha consentito di scoprire, poi verificata da analisi mediche, che sono carente di sali minerali. Ah, sì. Che magia! E come fa, Sandro? È tutto dentro questa l'app? Una piccola applicazione che sì. monitorizza la marcia con un GPS, quindi so esattamente il percorso e i chilometri che la faccio. Tiene d'occhio. Poi devo semplicemente, quindi so esattamente, poi devo semplicemente mettere l'app a un database molto fatto bene e dettagliato, in cui metto i componenti di tutto quello che mangio, colazione, pranzo, cene e cose varie, nelle quantità e voilà. date. E ha un quadro perfetto. Quindi a fine giornata io posso vedere tutta quella che è la mia alimentazione, tutti i componenti, e ho scoperto che rispetto a quel database che loro hanno c'era questa carenza di calcio, vitamina A, vitamina C, poi magnesio, potassio e altre cose, adesso lo ricordo. E quindi ho potuto riequilibrare, ed era vero. Allora, grazie Sandro per questa info. Dottor Archetti, la tecnologia ci aiuta. Anche, ecco, i runner adesso sono sempre più tecnologici. Assolutamente. Io li vedo correre, sono veramente. Ma abbiamo pure noi il contapassi, e non solo, se è applicato lo stesso. Ce l'abbiamo. I runner ormai hanno tutto monitorato, direi, in assoluto: frequenza cardiaca, pressione, i passi fatti, i chilometri fatti, sforzo fisico al momento. Direi sulle app di stare un pochettino, magari un po' attenti, perché possono essere un po', diciamo, generali, nel senso che danno magari un'indicazione non proprio specifica della cosa. Un po' a spanne, perché, comunque. Ecco, allora, dottor Archetti, i mercati, Deborah vuole fare i mercati perché è arrivato il momento, ma abbiamo già delle richieste di aiuto, ad esempio al 349-238-6666, così leggiamo i messaggi, perché invitiamo sempre i nostri ascoltatori a scriverci, vogliamo leggerli. A settembre mi sembrava, allora inizia con: dottor Archetti, aiuto! A settembre mi sembrava di essere in forma e nel correre ho sentito un dolore all'interno del fianco sinistro, non mi è ancora andato via. Mi fa male quando cammino. E allora che cosa devo fare? Devo fare la risonanza, eccetera. Ma bisognerebbe chiedere al nostro ascoltatore se nonostante questo continua a correre, perché esatto. I runner sono decoccio. Quando smettono vanno proprio in crisi di astinenza totale, si innervosiscono, sono intrattabili, direi. Però noi abbiamo il dottor Archetti, infatti, che si occupa proprio di atleti e di sportivi infortunati, e quindi siamo in ottime mani. Andiamo a sentire i mercati. Posso segnalare che il domandone che hai fatto, Nicoletta, la risposta viene richiesta con il numero verde all'800 24 00 24. Premiamo solo chi ci chiama, non possiamo accontentare anche chi ci scrive, perché siete in tanti e troppe e di difficile monitoraggio, per cui mercati. Cuore e denari. Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Il miracolo non è essere giunto al traguardo, ma aver avuto il coraggio di partire. Non è forte colui che non cade mai, ma lo è colui che dopo essere caduto si rialza e ricomincia. Amo correre. È una cosa che puoi fare contando sulle tue sole forze, sui tuoi piedi e sul coraggio dei tuoi polmoni. Jesse Owens. Allora, da Jessica Alba Madonna, passando per Cameron Diaz, fino ai nostri Giuseppe Cruciani, anche Linus. Sì, Sandro Fortuna, Danilo Alicino, tanti altri colleghi. E chi più ne ha, più ne metta. Silvio Lorenzi, ecco. Anche Giacomo e Giovanni del fantastico trio Corro, no? Sì, sì. Ah, insomma, tutti i pazzi per la corsa. Ne stiamo parlando oggi nella seconda parte di Cuore Denari con il dottor Oscar Archetti, che è dottore in fisioterapia e osteopatia e si occupa del recupero degli atleti infortunati. Dottor Archetti, si può correre per tante ragioni, non solo per fare una maratona, anche per il puro piacere di correre, per mantenersi in forma, per staccare anche la spina e per ritrovarsi anche un po' con gli amici, per continuare a giocare. Ma dottor Archetti, la corsa è davvero una disciplina per tutti? In linea di massima, se non ci sono proprio dei problemi specifici, direi di sì. In assoluto è la cosa più semplice. Dopo il cammino, che comunque è una cosa sempre da consigliare, che aiuta la corsa in assoluto, il modo migliore per fare un'attività fisica semplice e soprattutto che fa anche molto bene. Però questa basta infilarsi un paio di scarpette, dottor Archetti, quelle giuste, ne parleremo, ma insomma questa però anche facilità, no, della corsa rappresenta anche un rischio, perché ci sono persone che poi si lasciano prendere, diventano un po' dipendenti dalla corsa, no? E la colpa è di quelle famose endorfine, dottor Archetti, no? Assolutamente, poi, assolutamente. E che è anche il motivo per cui poi è difficile fermare uno che corre, il runner, dirgli devi star fermo perché ti fa male una gamba per una settimana, è come creargli una ferita profonda. Ecco, il rischio di strafare è molto alto e poi si pagano poi le conseguenze, no? Non solo per le articolazioni ma anche per il cuore, ma ci sono diversi studi, no? Che mettono proprio in guardia su questo, non superare il limite. Ma cosa significa, dottor Archetti, superare il limite, allenarsi troppo? È un problema di ore, di chilometri, di frequenza, di tipo di allenamento? Il fisico ci dà dei segnali? Ci vuole fare qualche esempio? Il fisico ci aiuta sempre, in ogni caso strafare è sempre sostanzialmente un motivo di fare delle cose in modo eccessivo. Per esempio, noi consigliamo sempre, se uno va a correre, di non correre all'inizio più di 3 volte alla settimana e non meno di 2, per avere un minimo di incremento utile per il proprio fisico. Se poi si continua e si va a correre tra le 4 e le 6 volte alla settimana, allora diventa una cosa un pochettino più impegnativa. Allora bisogna magari farsi anche aiutare un attimino per fare delle tabelle di lavoro che siano un po' meno superficiali. E poi bisogna cominciare a stare un pochettino attenti ai segnali del nostro corpo. Per esempio qualche dolore che inizia a farsi sentire, sintomi di stanchezza, piccoli microtraumi che poi col tempo invece possono diventare anche delle cose importanti. Quindi bisogna sempre ascoltare il corpo, oltre che, no, farsi spingere dalle endorfine. Questo è un po' un messaggio che possiamo dare. Intanto tanti ascoltatori vogliono parlare con lei, i lamenti dei giovani runner, ma cogliamo il suggerimento di Carlo Seberic, che ci scrive da Torino, pregandoci anche di usare la parola podista, che ci specifica non è una parolaccia, e quindi dei podisti, dei runner, di chi corre. Chiamateli come volete, l'importante è che stiamo tranquilli. Vincenzo, buongiorno da Roma, benvenuto. Buongiorno, sono Vincenzo, ho 49 anni e niente, ho avuto problemi diagnosticati, problemi alla schiena, come mi sono stati diagnosticati come lombalgia cronica. Ecco, 3 mesi fa ho smesso di correre, il professor Fossiacchini mi ha detto che posso continuare a correre. È possibile una cosa del genere, visto che ho ancora dolore e non è incurabile? Grazie Vincenzo. Dottor Archetti, la telefonata di Vincenzo ci permette di affrontare un grande capitolo. Insomma, ho un dolore, posso continuare a correre, quando invece devo affidarmi alle mani di un esperto per rimettermi, no, prima in sesto e poi magari per affrontare nuovamente questo impegno. Dottor Archetti. Fondamentale, quando si ha un dolore, cercare di capire subito l'origine del dolore. Nel caso, per esempio, di una lombalgia definita cronica, la cosa diventa un pochettino più difficile, ma non è detto che non si possa continuare poi a riprendere la corsa una volta che poi la si è curata nel modo migliore. Che cosa fare? No, cercare di fare ovviamente molto stretching, non bisogna cercare di correre nella fase acuta del dolore, poi una volta che sono passati questi 2 step, poi si può riprendere gradualmente la corsa sempre sotto la soglia del dolore e gradualmente quindi poi incrementare le proprie capacità appunto aerobiche per cercare di stare meglio. In ogni caso la cosa importante è sempre prepararsi bene facendo dello stretching, che è fondamentale soprattutto nel podismo o nella corsa. È un po' come un'assicurazione per il podista o runner che si voglia dire, che vuole correre a lungo e bene, ma nonostante questo viene un po' trascurato, vero, lo stretching? Molti lo vivono un po' come una perdita di tempo. Fondamentale come prevenzione, in assoluto. Poi si può fare dello stop. Uno che corre oppure fa del podismo può fare anche un po' di nuoto, che è sempre uno stretching naturale e che aiuta molto a rilassare i muscoli e le articolazioni. comunque lo stretching è assolutamente fondamentale. I grandi campioni l'hanno lo fanno usato. Forse fanno proprio, sono diventate dei campioni proprio perché l'hanno saputo usare bene. Potrebbe infatti, essere dottor Archetti, ma lei ci ha parlato degli elastici. Sì. Mm. Ho parlato degli elastici perché una delle cose importanti per chi corre è fare magari un incremento di forza o di resistenza senza andare ad appesantire le articolazioni. E allora, mentre con i pesi si può anche rischiare di sbagliare, soprattutto nel fai da te, mentre usare gli elastici con un meccanismo di lavoro che si chiama eccentrico, cioè caricare il muscolo, contrarlo e poi rilasciarlo gradualmente, dà un incremento di forza importante, dà un tono importante e non abbiamo il rischio di sovraccaricare le articolazioni. Quindi non interferisce negativamente durante la corsa. Naturalmente arrivano anche le mail dei nostri ascoltatori. Elastici, come si usano, dove si mettono. Qua. Dottor Archetti è pronto? L'universo mondo elastico. Pronto. Allora, intanto che lei si prepara, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi voilà, torniamo col dottor poi Archetti. Poi c'è il domandone, lo devi ricordarlo, Ricordiamolo. Ma tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. E corra su, correndo di notte da solo. Allora, per correre bene ci vuole, bisogna fare un po' pratica con gli elastici. Siamo arrivati qui prima delle informazioni sul traffico. Dottor Archetti, questi elastici ci stanno facendo impazzire. Allora, dove si comprano, come sono fatti, come si usano, chi può usarli, ma li usano anche, possono usarli anche le persone che non corrono. Via con l'elastico, dottor Archetti. È uno strumento per lo sviluppo della forza e per migliorare il tono muscolare. Quindi va bene per tutti, sono una mano santa. Vanno assolutamente bene per tutti, li vendono in negozi importanti di articoli sportivi o comunque di materiale sportivo, hanno diversi colori perché il colore dell'elastico determina la resistenza dell'elastico. Per esempio il giallo è una resistenza più soft, mentre il blu scuro è una resistenza molto più accentuata durante il lavoro che si fa con il muscolo. Quindi si alternano un po' i colori? Si alternano un pochettino i colori. Vedi che so. Hai visto? Ma te l'ho detto che potevi fare la trasmissione tranquillamente. Dottor Archetti, quindi facciamo un po' un elastico multicolor, l'alterniamo, ma ci sono degli esercizi che lei vuole suggerirci? Ma la cosa migliore, se vogliamo incrementare i muscoli delle gambe, sono una leg extension in cui estendo la gamba con la resistenza dell'elastico e il segreto è che poi questa resistenza io il ritorno devo farla gradualmente, come dicevamo in precedenza, perché in questo modo facciamo quello che viene chiamato un lavoro eccentrico che è molto importante per la forza della fibra muscolare. Che è più difficile farla lentamente, impegna di più. È un po' più difficile e un po' più noioso, se vuole. Se è un po' più difficile, è un po' più noioso, ma è fondamentale farlo in questo modo, insomma, ecco. Insomma, come si dice, paga. Massimo, buongiorno da Milano, ma lei gli elastici li conosceva o no? Buongiorno, no, non li conoscevo, ma non li uso neanche. E fa male, Massimo, fa molto male. Ma in realtà io da 30 anni che corro e non ho mai avuto questo problema. O meglio, non li ho mai utilizzati effettivamente, non ne ho sentito bisogno, diciamo, quindi. Ma quello che volevo condividere è un po' la pratica che sto ormai tenendo da diversi anni. Mi sono trovato un equilibrio che mi aiuta anche direi nel lavoro, nel senso che vado a correre un paio di volte alla settimana, alla mattina, una mezz'ora prima di andare al lavoro, e questo aiuta veramente molto in termini di equilibrio, di carico, anche di energia, e poi un'ora o il sabato o la domenica. Quindi questo faccio circa una ventina di chilometri, 20, 21 chilometri, 22 più o meno alla settimana, e per me questo è l'equilibrio corretto tra stare bene con me, col mio corpo, e anche portare avanti le mie attività durante la settimana. Quindi ha trovato la ricetta proprio perfetta. Dottor Archetti, grazie Massimo per la sua telefonata. Dottor Archetti, è a questo che bisogna tendere? Assolutamente, bisogna cercare prima di tutto il benessere fisico, e quando si scopre attraverso la corsa che poi si sta davvero bene, poi appunto è difficile smettere. Se invece si vuole qualcos'altro, allora come anche dicevamo prima, le cose cambiano un momentino. Cioè, un conto è correre per sentirsi liberi e bene mentalmente, un conto invece è correre per poi voler fare una mezza maratona o addirittura una maratona. Ecco, cambiano un pochettino i parametri. Ma dottor Archetti, quali sono i segnali che mi fanno capire che sono pronto per la mezza maratona o per la maratona? Beh, i segnali sono molto semplici, sono gli incrementi di chilometri che si fanno sostanzialmente senza peggiorare la nostra condizione fisica. Se io gradualmente e con delle tabelle adeguate riesco a fare i 20 chilometri, 25 chilometri e recupero poi in breve tempo, vuol dire che sostanzialmente sono pronto per fare una mezza maratona e poi gradualmente anche la maratona. Ecco, lei ha sottolineato il recupero poi bene, perché anche il momento del recupero è importante, quasi quanto lo stretching e il riscaldamento a cui lei accennava prima, cioè il dopo esercizio, il dopo allenamento, quante informazioni ci dà e quali soprattutto? Il recupero è fondamentale, noi non dobbiamo mai cercare di correre eccessivamente se per esempio abbiamo dei dolori muscolari o siamo pieni di acido lattico, nel modo più assoluto. Le tabelle, gli incrementi di corsa sono fatti proprio per questo motivo qui, sono fatti per portarci a una condizione di forma aumentando i nostri chilometri senza necessariamente dover poi subire invece degli arresti improvvisi perché tra virgolette non ce la facciamo più. E nella corsa può capitare. Nella corsa può capitare, ma dottor Archetti, per chi non può correre fuori nei parchi oppure e vuole allenarsi all'interno, quindi di una palestra, va bene lo stesso l'allenamento sul tapirulan? Va benissimo. Quando non ci si può allenare fuori o non si ha tempo per allenarsi fuori, per esempio magari vicino all'ufficio c'ho la palestra, ci perdo un'ora ogni giorno, va benissimo. Poi correre in palestra non è una cosa assolutamente negativa, soprattutto per esempio quando fa molto freddo, perché correre all'aria aperta va bene, ma respirare aria troppo fredda per esempio non va assolutamente bene. Ah. Per esempio in palestra magari c'è un ambiente un attimino più riscaldato e comunque certamente non freddo come l'esterno o non umido come l'esterno, e poi se per esempio piove molto o ci sono delle condizioni meteorologiche strane, va benissimo comunque correre in palestra, ma anche semplicemente per il gusto di correre. Il Balboa era un'altra cosa. Per scatenare le endorfine. Allora, dedicheremo poi una puntata speciale proprio per l'abbigliamento, per le scarpe. Oggi vi abbiamo raccontato l'elastico, anzi gli elastici, alle scarpe. La prossima puntata, perché abbiamo Pierluigi da Milano, pronto per dirci chi ha vinto la prima maratona? Buongiorno, Gary Mürke. Bravo! Bravo Pierluigi, ci dà molte soddisfazioni, sarà contattato dalla redazione per sapere quale libro preferisce. Grazie al dottor Archetti, buona giornata. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. A presto. Noi abbiamo terminato, sì. È già giunta l'ora X. Tu tra sì. Poco riparli. Sono di nuovo qua con la borsa, peraltro mercati che affronteremo domani anche con Investire Informati e tanto altro ancora. Ti auguro un buon pomeriggio. Anche a te, bella mia. A domani.